America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. What brought Iran to negotiate, to ask to negotiate with the United States about nuclear weapons? Sanctions, nothing out of the goodness of their heart. Il senatore Chuck Schumer, democratico di New York, il senior senator di New York, uno dei più influenti membri del Senato, ma soprattutto è un uomo che crea molti consensi anche all'interno del partito. E Schumer, con altri senatori democratici, si è alleato con un gruppo di senatori repubblicani e insieme hanno messo a punto un progetto per delle sanzioni, nuove sanzioni contro l'Iran, se l'Iran non rispetterà i termini degli accordi siglati con il presidente Barack Obama. Cosa è successo ieri? Beh, che Barack Obama si è risentito e ha detto che lui utilizzerà il diritto di veto nel caso i senatori decidano di andare avanti e passare, queste ipotesi di sanzioni che rendono più difficile la vendita del petrolio, insomma, che stringono alcuni cordoni che hanno così creato dei problemi a Teheran. Perché il presidente reagisce in questo modo? Perché l'Iran ha detto: attenzione, noi andiamo avanti in buona fede, però guai a voi se parlate di nuove sanzioni. Se parlate di nuove sanzioni, noi a quel punto the deal is off, a quel punto noi non ci stiamo più. Per questo Obama reagisce in modo duro. Credo che sia importante discutere di questa cosa, perché conferma quanto di rottura sia questa nuova fase nei confronti dell'Iran. Di rottura nel senso vero della parola, perché ha raffreddato i rapporti di Barack Obama con l'Arabia Saudita, con Israele, ha messo in crisi il processo di pace fra israeliani e palestinesi e adesso ha creato una rottura, una frattura tra un senatore vicinissimo a Obama come Charles Schumer e appunto lo stesso presidente. Io con me ai microfoni di America 24, Maurizio Molinari, grande esperto di Medio Oriente, corrispondente della Stampa, per cercare di capire, di sbrogliare un po' questa matassa. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te Mario. Beh, allora, insomma, questo Iran continua a essere un po' un tormentone. Come vedi quest'ultimo sviluppo? Sì, una spina nel fianco del presidente, ironia della sorte, e il messaggio negativo per la Casa Bianca arriva da Capitol Hill poche ore dopo che il presidente aveva salutato con favore il voto bipartisan al Senato di approvazione del nuovo bilancio. La realtà vera è che lì dove si chiude un capitolo, appunto la battaglia del bilancio, se ne apre un'altra sull'Iran. Obama aveva tentato di evitare la rivolta dei senatori democratici, in realtà c'è stata, alleandosi con i repubblicani, gli contestano la strategia di Ginevra, i presunti cedimenti all'Iran e quindi una marcia indietro rispetto alla strategia per impedire a Teheran di avere l'arma nucleare. Obama minaccia il veto, ma ciò che conta sul piano politico a Washington è lo smottamento interno al Partito Democratico, soprattutto nella leadership. Uno smottamento continuo, devo dire, di leadership. E qua ci sono due aspetti che riguardano l'Iran. Da una parte il triplo salto mortale con cui Obama, con grande rapidità, ha cambiato una strategia che puntava a una rottura di un legame, per esempio, fra Iran e Hezbollah attraverso le forzate dimissioni di Assad, e poi improvvisamente questa strategia è caduta. Il secondo punto è che l'America, così con una certa facilità, ha rinunciato a quella che era la pregiudiziale assoluta in qualunque risoluzione e sanzione contro l'Iran, e cioè che prima di parlare l'Iran doveva accettare di smantellare il reattore ad acqua pesante per la produzione del plutonio di Arak e doveva smantellare soprattutto gli acceleratori per l'arricchimento dell'uranio. Ecco, queste due cose non compaiono più, nel senso che dal punto di vista americano basta sospendere, basta interrompere. E è chiaro che l'Iran potrà andare avanti, gli conviene a interrompere, perché poi se vuole in due mesi rimette tutto in piedi. Ecco, secondo te c'è un danno vero da questo triplo salto mortale americano nel contesto regionale? Ma la rivolta dei senatori democratici nasce dallo scontento sui risultati dell'intesa ad interim, che lasciano di fatto, come giustamente tu ricordavi, intatto il sistema di produzione tanto del plutonio ad Arak quanto delle centrifughe dell'uranio. La risposta dell'amministrazione è che si tratta di un accordo interinale, che poi l'accordo complessivo che arriverà fra 6 mesi invece sarà più decisivo, e che questo periodo di transizione è importante, serve ai diplomatici per creare una maggiore pressione sull'Iran. Di fronte a queste obiezioni, Obama sostiene la tesi opposta, che cioè imbrigliare l'Iran in un accordo di questo tipo fra 6 mesi significa di fatto creare un ultimatum internazionale, ovvero se fra 6 mesi poi l'Iran non rispetterà le norme che saranno concordate in maniera definitiva, di fatto sarebbe paradossalmente legittimato ancora più un'azione militare. E dico questo per sottolineare la divergenza che c'è fra chi si oppone e contesta la tesi di Obama e la Casa Bianca. È una spaccatura sul fronte della politica estera che rischiamo di portarci avanti nei prossimi mesi del 2014, potrebbe segnare i rapporti fra Obama e il Congresso. Di fatto abbiamo accettato che l'Iran abbia l'arma atomica? Le stime dei paesi europei e degli Stati Uniti sulla corsa al nucleare dell'Iran sono che vi sono circa ancora 18 mesi di tempo per impedire all'Iran di avere le condizioni per produrre l'arma nucleare. Il problema è che questa è una valutazione che Israele non condivide, e in presenza di un accordo finale che non dovesse tenere presente le preoccupazioni di Gerusalemme, Netanyahu potrebbe ordinare l'attacco militare, magari con l'intesa e il sostegno degli ex rivali sauditi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @mariopratero. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre in pieno spirito natalizio. Canzoni di Natale americane, le adoro, devo dire, contribuiscono molto a un'atmosfera strepitosa e straordinaria, e dunque di Elvis Presley, Silver Bells. Silver bells, silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style, in the air there's a da New York feeling. È tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.